Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, insomma, faremo come sempre il venerdì il bilancio anche della settimana, una settimana quanto mai intensa tra Telecom Italia e adesso, diciamo, la fretta del governo nel cambiare eventualmente la Golden Rule, poi ne parleremo, cambiare anche la soglia sull'OPA. E poi all'Italia, oggi il Consiglio di Amministrazione resta in campo anche con la complicazione di un Air France che non ha voluto partecipare all'aumento di capitale. Era un piccolo aumento che serviva, diciamo, a mantenere in vita l'Italia per qualche altro mese, ne parleremo. L'Ilva, forse adesso le agenzie stanno battendo, in realtà è un'anticipazione del Sole 24 Ore, e gli stabilimenti Riva Acciaio potrebbero riaprire lunedì. In realtà l'aveva già annunciato questa mattina il ministro dello sviluppo economico Zanonato. Gli operai a Verona si sono ripresentati regolarmente al lavoro, ma ripeto, in questo momento sarebbe un'indiscrezione, per cui sarebbe pronto il decreto che permetterebbe di far riaprire gli stabilimenti della Riva Acciaio, non dell'Ilva per essere precisi. Ma dicevo, una settimana in cui obiettivamente, mentre la politica è impegnata, è chiaro, insomma, in altri casi sono venuti al pettine molti nodi di questo paese che hanno storie diverse. Telecom Italia, l'abbiamo raccontata mercoledì, è, diciamo, un esempio da manuale di come non si fa una privatizzazione senza capitali e senza concorrenza, senza degli azionisti industriali, arrivando poi a mettere delle banche, e come si fa, e i danni che porta una privatizzazione quando è fatta con pochi capitali, quindi il controllo avviene con una piccola quota e si portano tutti gli utili su nella parte alta del controllante, riducendo valore per l'azienda e quindi poi non riuscendo anche a ridurre il debito. La vicenda invece all'Italia è una vicenda che inizia molto dopo. Se Telecom inizia nel 98, all'Italia inizia nel 2008, non che i problemi prima non vi fossero, ricordate tutti, raccontavamo ogni giorno che all'Italia perdeva 1 milione di euro al giorno, però la decisione decisione politica di non darla ai francesi, a Air France, e invece fare partecipare una cordata di imprenditori italiani. In questi anni all'Italia ha bruciato 5 miliardi almeno di valore. E ancora, per quello che riguarda la vicenda di questi giorni, oltre a Riva, anche un Monte dei Paschi che, insomma, speriamo non abbia bisogno di altri aiuti. Lo dico perché sono quattro vicende, o perlomeno le prime tre, molto diverse, ma con un unico comune denominatore, filo rosso. E cioè, il governo si muove quando i buoi sono scappati dalla stalla, cioè tardi. Si poteva pensare prima a una legge sull'OPA, si poteva pensare prima a modificare la Golden Rule, si poteva pensare prima a cosa fare di Alitalia, e soprattutto evocando sempre questa cassa depositi e prestiti che non si capisce più che cosa debba comprare, perché la vogliono in ansaldo energia, la vorrebbero come salvataggio per Alitalia, forse sicuramente potrebbe entrare forse in Telecom Italia per comprarsi la rete. Insomma, la CDP non è, faccio notare, la gallina dalle uova d'oro è così utilizzabile come la vecchia IRI, perché la cassa depositi e prestiti è vero che ha tanta liquidità, ma ce l'ha perché ha i risparmi postali degli italiani. Allora, quando si dice socio industriale non si intende il cittadino italiano che dovrebbe salvare alcune aziende, gruppi, mettendo dentro lì i suoi risparmi postali. Non mi sembra che sia questo l'obiettivo. E comunque è inutile tirare la cassa depositi e prestiti per la giacca da tutte le parti. E questo è il tema di cui ci occuperemo nella seconda ora del programma, per fare un bilancio, insomma, di come mai tutti questi nodi arrivino al pettine in questo momento. Dall'altro lato c'è una situazione politica che obiettivamente indebolisce il paese. Allora bisogna capirsi La borsa ne sta risentendo? Sì, Milano è la peggiore, ma non in maniera drammatica tra le borse europee, meno 1% Milano, invariata Parigi, invariata Francoforte, Londra meno 0,90%, l'America meno 0,60%. Vanno male alcuni titoli, G-Tech meno 3,40%, Tenaris meno 3,30%, Fondiaria meno 3%, Popolare Emilia Romagna meno 2,40% come Telecom Italia, il 2,30% europea del Banco Popolare, il 2% Ansaldo STS e anche UBI Banca, Finmeccanica meno 1,80%, Saipem meno 1,70%. Autogrill invece guadagna l'1,80% e Mediaset lo 0,60%, sono gli unici due titoli positivi tra quelli a maggiore capitalizzazione. Parleremo però anche del Consiglio dei Ministri, che non si capisce a questo punto, dovrebbe essere confermato alle 19.30, tutto il giorno che non si capisce se c'è o non c'è questo Consiglio dei Ministri, anche perché quando il Premier Letta si reca al Quirinale, al Colle, per la crisi che si è aperta, era in dubbio, invece confermato alle 19.30, dovrebbe decidere il rinvio al 1 gennaio dell'aumento dell'IVA. Allora, anche qui meglio capirsi, meglio un rinvio di 3 mesi, però è ovvio che non possiamo continuare a affrontare il tema a botta di rinvii di 3 mesi in 3 mesi. Perché sì, meglio avere l'IVA che aumenta a gennaio che non adesso a ottobre, però il costo è un altro miliardo di euro. La bozza del decreto messo a punto dal Ministero dell'Economia individua come coperture l'aumento dal 1 ottobre, indovinate un po' di cosa? Sigarette fa il tecnico? No. Alcol fa il tecnico? No. La benzina, anche perché le sigarette e l'alcol le usano per fortuna solo alcuni, mentre per fortuna sulle sigarette l'alcol, quando è un buon vino, va benissimo. Però dico, l'automobile tendiamo a usarla quasi tutti sopra i 18 anni, 2 centesimi dell'accisa sulla benzina e un incremento, quindi un ritocco verso l'alto anche degli anticipi IRES e IRAP. Faccio notare che il governo deve reperire circa 6 miliardi da qui a fine anno. A questo punto sono 2 miliardi e 4 per cancellare la seconda rata IMU, 1 miliardo per eventuale rinvio appunto dell'IVA, 1 miliardo e 6 per mantenere il deficit sotto al 3%, 400 milioni per rifinanziare le emissioni all'estero, 500 milioni per rifinanziare la cassa integrazione in deroga, e anche di questo parleremo, perché appunto tra l'Italia, Telecom, Riva, in realtà qui poi c'è un problema anche di chiudere l'anno come abbiamo promesso all'Europa. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Visto che parlavamo dell'accisa dei 2 centesimi in più, l'amministratore delegato dell'ENI oggi, Paolo Scaroni, ha obiettivamente bocciato l'ipotesi di un altro rialzo dell'accisa sulla benzina, e lo ha fatto al microfono la nostra Arianna Filippini a margine della presentazione della campagna istituzionale della società questa mattina a Milano. Capisco che possa essere una soluzione che è stata adottata tante volte. Certo, i consumi di benzina non fanno che scendere e non credo che un aumento dei prezzi contribuirà a raddrizzare questo mercato. Altre notizie di questa giornata economico-finanziaria: petrolio e oro stabili sostanzialmente, mentre sempre in tema di costi dell'energia, visto che stavamo parlando di bollette, è sempre il numero uno dell'ENI Paolo Scaroni, oggi ha ricordato come in Italia i costi dell'energia siano 3 volte superiori a quelli degli Stati Uniti. Anche secondo Scaroni l'Italia dovrebbe intraprendere, l'Italia intesa come ENI in questo caso, la strada dello shale gas, che è la grande frontiera in questo momento energetica sulle energie tradizionali, intrapresa dagli Stati Uniti. Questo è un problema drammatico, io lo chiamo un'emergenza energetica dell'Europa che poi si traduce in un'emergenza economica, perché non vedo una renaissance, una nascita di una nuova industria in Europa con un differenziale così alto del costo dell'energia. Allora, che fare? Beh, io credo che la prima risposta che dobbiamo darci è vedere se anche noi possiamo vivere la rivoluzione americana dello shale gas. Vedo che molti giustamente chiedono cos'è lo shale gas. È un gas ottenuto sostanzialmente dalle argille. Ed è la nuova frontiera. C'è molto dibattito sulla cosa. C'è chi dice che in realtà ha un impatto sul territorio forte, che l'ottimismo è esagerato, però è sicuramente la frontiera energetica che l'America si è posta in questo momento, una nuova frontiera, appunto, lo shale gas. Comunque, mentre appunto la politica discute della forma che dovrà avere il nuovo, ammesso che vi sarà, governo, faccio notare che lunedì prossimo è una giornata da incubo per i contribuenti italiani, sia che siano imprese sia che siano cittadini. Esiste un modo di dire nella borsa americana, quando si accavallano tutto un insieme di scadenze tecniche, si chiama the three witches, le tre streghe. Quale streghe? Questo è un sabba, non sono tre streghe, sono 49 le streghe, perché sono 49 scadenze fiscali che si concentrano tutte lunedì 30 settembre, senza contare alcuni adempimenti locali, per esempio la tassa sui rifiuti a Milano. Non sempre sono pagamenti, per essere precisi, ma vanno rispettati. Faccio un esempio: entro fine mese bisogna ad esempio presentare il modello unico in via telematica, le dichiarazioni IRAP e quelle IVA. Si possono pagare le imposte non versate nel 2012 sopportando sanzioni ridotte. Scatta poi il termine per la richiesta di rimborso IVA assolto in altro stato, una serie di adempimenti relativi al 5 per 1000 e ancora il ravvedimento per la dichiarazione IMU 2012 e poi la presentazione del modello CNM, Consolidato Nazionale Mondiale, le dichiarazioni dei redditi presentate dagli eredi. Insomma, se uno va sul sito dell'Agenzia delle Entrate e guarda la sezione dedicata al calendario degli adempimenti fiscali e clicca il 30 settembre, sapete quante pagine escono? 33. Una buona notizia arriva invece dalla fiducia delle imprese. La fiducia in Italia sta lentamente risalendo e crescendo. Già abbiamo visto due crescite consecutive nella fiducia dei consumatori. Oggi è tornata a crescere anche la fiducia delle imprese a 83,3 punti. Per la manifattura si tratta del livello più alto da un anno a questa parte. Comunque il livello resta basso, sotto i 100 punti, però in questo periodo accontentiamoci di tutto. E poi la vicenda Riva, vedo che molti ci chiedono che cosa sta... Arriviamo tra un secondo alla vicenda Riva, vorrei dare qualche aggiornamento su quella che ho chiamato, insomma, le dichiarazioni da Forrest Gump che abbiamo visto mercoledì su Telecom, tutti che scoprivano Telecom improvvisamente. Numero uno Franco Bernabè, che dicevo, ha preso dei mutamenti societari dentro Telco, che è l'azionista di riferimento del gruppo Telecom, dal comunicato stampa. Ma lo stesso Catricalà che iniziava a dire bisogna scorporare la rete adesso. E poi mitico Zanonato che dice ma non mi sembra che sia successo moltissimo, non è vero che Telecom è spagnola, come non è vero. Beh, insomma, oggi Catricalà, il vice ministro dello sviluppo economico, torna sul tema, dice siamo ancora in tempo per fare tutto e dobbiamo tenere i nervi saldi, nell'ambito della regolamentazione europea fare una scelta accurata, moderata e proporzionata al risultato che vogliamo ottenere. Non è successo nulla di riparabile, si può ancora intervenire per ottenere le rassicurazioni che vogliamo. E sì, perché il governo si è accorto improvvisamente che dentro Telecom Italia c'è anche la rete di telefonia e il Copasir, quindi i servizi segreti, hanno detto beh attenzione, potrebbe essere pericoloso avere la rete di telefonia in mano stranieri, fermo restando che quando era in mano italiane l'hanno spiata tutti e continuo a dirlo, però insomma è interessante che uno se ne accorga, operazione già conclusa. E ancora Catricalà continua, se c'è l'accordo si può fare, dico che è possibile, si può cambiare la legge sull'OPA, è possibile ma difficile da realizzare, non può essere una regola buona per una sola partita, ci mancherebbe, facciamo la legge ad personam su Telecom, ne abbiamo già avute abbastanza di leggi ad personam in questo paese. Va avanti Catricalà, deve essere una legge che vale per tutti, su questo ci siamo. Il presidente della Consob Giuseppe Vegas dice è possibile una modifica della legge sull'OPA in tempi brevi, ma insomma meno male che qualcosa si muove, ha aggiunto Vegas. All'Italia invece, poi vi arriveremo, comunque spaccato in due anche il governo, perché? Ieri il Consiglio di amministrazione dell'Italia ha approvato una semestrale da 300 milioni di euro di perdite, 294, e varato un aumento di capitale da 100 milioni. Nonostante il socio di maggioranza Air France abbia votato contro, cioè non interessa ad Air France un aumento di capitale da 100 milioni e basta. È però spaccato anche il governo, perché c'è da una parte il ministro dei trasporti Lupi che spinge per la soluzione Air France, ritenuta adesso l'unica concretamente percorribile. Dall'altro chi, come il ministro Zanonato e il vice ministro Fassina, non vogliono piegarsi al diktat di Parigi e ritengono che si possa ancora guardare altrove. Questo mi fa impazzire, perché praticamente Lupi, che è espressione del Popolo della Libertà, del centrodestra, adesso vuole dare all'Italia Air France, quando nel 2008 Berlusconi stesso in campagna elettorale si oppose. E invece Zanonato e Fassina, che sono espressione del PD e del centro-sinistra, vorrebbero trovare un'altra soluzione, immagino italiana, mentre Prodi, allora ancora Presidente del Consiglio, era per la soluzione francese. Quindi non solo spaccato, ma addirittura col gioco delle parti. Amuina, chi sta a poppa va a prora, chi sta a prora va a poppa, così non cambia una beata niente. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Partiamo allora a raccontare questa giornata, partiamo però anche dalla confusione complessiva che c'è in questo momento, e anche da quello che ha messo in evidenza oggi Mario Draghi, intervenuto alla Bocconi in una cerimonia che commemorava la figura di Luigi Spaventa. Allora, Mario Draghi oggi, insomma, sull'euro è intervenuto, dice: attenzione, per l'Italia i benefici dell'euro sono stati più che in altri paesi, e Draghi ha citato Spaventa, ha detto: Spaventa ha sempre criticato chi voleva uscire dall'euro. Luigi non ha mai perso l'occasione per criticare le sirene che ripetutamente chiedono un'uscita dall'euro. Ricordiamoci, perché tanto spesso lo si dimentica, che l'Italia è il paese che più di ogni altro ha tratto beneficio dall'euro. Come avviene per ogni grande debitore, a metà degli anni 90 gravava sul bilancio pubblico italiano un onere di interessi elevatissimo, a causa non solo della dimensione del debito, ma anche del livello dei nostri tassi, che rischio di cambio e rischio di credito collocavano a circa 3 punti sopra quelli tedeschi. Con un onere del debito vicino al 12% del prodotto, il pur notevole aggiustamento compiuto negli anni precedenti non era bastato. Il disavanzo superava ancora di oltre 4 punti la soglia di ammissione. L'allora ministro del Tesoro, si chiamava Carlo Azeglio Ciampi, ostinatamente deciso a farcela, destramente comprese che il costo del biglietto d'ingresso per i cittadini poteva sostanzialmente ridursi se un fermo impegno a rispettare le condizioni avesse convinto i mercati. Al resto avrebbe provveduto la diminuzione dei tassi di interesse, senza né lacrime né sangue. No, Draghi ha voluto, da come capisco io, anche ricordare agli italiani che l'euro ha prodotto notevoli vantaggi, tassi di interesse, risparmi garantiti, però l'euro non è, diciamo, una polizza assicurativa, perché non era stata pensata come una polizza assicurativa perché l'Italia continuasse a fare il che cavolo voleva. Tanto una volta cosa succedeva? Quando avevamo problemi svalutavamo la lira, il che ci permetteva di aumentare le esportazioni, di mantenere l'occupazione e anche di mantenere una struttura produttiva in alcuni casi inefficiente, però aveva il piccolissimo dettaglio che continuava a far lievitare il debito pubblico. Andate a vedere la curva del debito dagli anni 80 agli anni 90 e capite che il debito pubblico ce lo siamo caricato tutto in quegli anni, tutto in quegli anni. Allora non si poteva continuare a aumentare, a svalutare per che eravamo poco produttivi. Allora l'euro ci ha imposto lo stesso terreno di gioco e lì si è scoperto dal 2000 in poi che tutto l'insieme di vincoli nostri, la grossa tassazione sulle imprese, anche diciamo qualche inefficienza nel mondo delle imprese, i vincoli burocratici, i costi del sistema, la scarsa concorrenza in alcuni settori e andiamo avanti così, hanno lasciato la produttività di questo paese invariata, mentre la Germania l'ha aumentata di 13 punti in 10 anni, la Francia di 8, la Spagna di 5, cioè tutti sono cresciuti e sono diventati più produttivi, tranne noi. E adesso i nodi vengono al pettine. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Questa è una puntata che potremmo chiamare, diciamo, i nodi vengono al pettine. Poi ne parleremo con un ospite che è un ritorno a Radio 24, ma ve lo presenterò alle 18.15. Parleremo dei nodi Telecom, del nodo Alitalia, del nodo Riva, Acciaio e forse anche Monte dei Paschi. Mi sembra che gli altri nodi sono quelli della politica. Cioè, insomma, in questo momento dobbiamo dire che un governo di grandi di larghe intese o diventa un governo capace di fare le riforme che il singolo schieramento non riesce a fare, o se no diventa un pastrocchio. È così, io sento continuamente ripetere, lo sentiamo ripetere ormai da settimane, la parola stabilità, diciamo che è la ricerca, diciamo, di questa stabilità. La stabilità ovviamente va benissimo perché diciamo, un governo stabile ad esempio è un'assicurazione sui mercati, si sa quello che vuole fare e si sa che ha un percorso davanti da compiere, però ecco, questa stabilità non può significare né immobilismo né pasticci e ad esempio oggi diciamo, quello che si profila, cioè il decreto con cui viene fermato l'aumento dell'IVA che slitterebbe a gennaio dal primo di ottobre, beh, viene fatto, diciamo, in cambio con degli acconti IRES e IRAP che vengono, diciamo così, rinforzati e aumentando le accise sulla benzina. Questo secondo me è un modo, diciamo, vecchio di individuare una soluzione, è roba da anni 70, da primi anni 80, non so, ci riporta indietro nel tempo quando, diciamo, si levava da una parte e si metteva il fisco dall'altra. Questo, ad esempio, secondo me è una soluzione sbagliata. La stabilità non può essere, diciamo, un compromesso continuo e non diciamo, un percorso, se vogliamo, anche coraggioso, e in questo momento serve questo, serve coraggio, diciamo, per uscire da questa crisi e agganciare la famosa ripresa. Allora, dopo il metodo e la pubblicità, vorrei capire, qui un piccolo cabotaggio, qui, più che piccolo cabotaggio stiamo andando a tastoni, mi sembra, che piccolo cabotaggio almeno una sua logica ce l'ha. No, i fratelli Caboto avevano insegnato che si poteva anche circumnavigare l'Africa andando a vista, ma qui mi sembra che navighiamo nel buio, non è che andiamo a vista. Vorrei capire, tu che sviluppi prevedi, c'è un Consiglio dei Ministri alle 19.30 che, se tutto va bene, sposterà lì l'aumento dell'IVA il 1 gennaio, ma soprattutto ha messo, mi sembra molto chiaro, che al di là dei problemi giudiziari del leader del centrodestra Silvio Berlusconi, qui insomma non si possa continuare a tirare a campare, perché da tutte le parti le crepe iniziano a vedersi. Cioè, tu hai un premier come Letta che va a Wall Street, suona la campanella e qua gli suonano la campana, se mi passi la battuta. Hai l'Italia che garantisce in America, abbiamo la stabilità economica, e ministri minacciano le dimissioni, e soprattutto non riesci poi a fare riforme. A me ha impressionato una cosa più che il dibattito politico, Guido, è che su vicende arcinote come Telecom Italia, Alitalia e anche Riva, il governo è arrivato tardissimo, adesso stanno cercando di cambiare la legge sull'OPA da Golden Share, come se fosse stato distratto da altro. Esatto, purtroppo questa è, diciamo, abbiamo visto le reazioni di grande sorpresa da classe politica. Lì siamo alla follia, dai. Esatto, in occasione di Telecom, lo stesso più o meno sulla questione Alitalia Air France, insomma c'era un regolamento che doveva entrare in funzione, quello sulla famosa Golden Share, che è rimasto a galleggiare nei cassetti dell'esecutivo per 18 mesi. Insomma, questa è la situazione, e è chiaro che deve esserci a questo punto quella che, con purtroppo, diciamo, un termine conosciuto in particolare nella Prima Repubblica, ma anche poi nella Seconda, si è ripetuta la famosa verifica politica, che significa, diciamo, mettere le carte in tavola. Probabilmente Letta deciderà di andare in Parlamento e di porre la questione laddove va posta in termini istituzionali, e quindi questo governo ha o no una maggioranza, punto primo, che cosa vuole fare questo governo nei prossimi mesi, perché la situazione, diciamo, è una situazione, diciamo, di allarme forte, diciamo, anche ricordiamoci che poi siamo anche sotto osservazione sui mercati, ci sono le agenzie di rating, quindi è una situazione molto delicata questa, e non credo che si possa più traccheggiare. Occorre, diciamo, capire se questo governo può andare o non può andare avanti, e questo va fatto nelle prossime ore. La dedichiamo alla nostra classe politica di nuovo questa canzone, My Head is a Jungle. Mi piace quando le dice ehi, ehi, ehi, che è quello che vorremmo dire un po' ai nostri politici. Allora, Guido Gentili, dai, giochiamoci sta schedina. È venerdì, una volta si giocavano il venerdì le schedine. Quanto regge Letta in queste condizioni? Perché adesso, a parte tutte le battute, quello che è successo a New York è stato... anche per un premier che comunque cerca di rappresentare l'immagine d'Italia, è stato veramente devastante. Uno poteva almeno aspettare che tornasse da New York e fare la famosa verifica politica. Prego. Assolutamente. Tra mezz'ora Letta dovrebbe salire al Quirinale, e quindi concorderà le mosse dei prossimi giorni con il presidente Napolitano. Per quello che si può capire, io credo che finirà con, visto che anche il PD preme in questa direzione, per un chiarimento, il che significa operativamente la richiesta di porre un voto di fiducia su un documento che presenterà il governo martedì prossimo al Senato, e su cui si discuterà e si verificherà se questa maggioranza delle larghe intese esiste ancora o non esiste più. Al momento, stando, diciamo, a quello che emerge dal PDL, che in questo momento è l'ago della bilancia da questo punto di vista, io non faccio molto affidamento sulle previsioni che dicono che il PDL si spaccherà e quindi ci sarà la possibilità di tenere, diciamo così, una maggioranza con dei transfughi del PDL, perché è vero che c'è per ora qualche posizione isolata, l'ex ministro Giovanardi, forse il ministro Quagliariello, ma mi sembra che la situazione, diciamo, lì al momento in cui si dovesse arrivare a uno shutdown tutti seguiranno, diciamo, quella che sarà l'indicazione di Berlusconi. Quindi io al momento la navigazione è davvero a vista, la navigazione politica, però al momento mi sembra che gli spazi siano veramente molto molto esigui, e quindi la possibilità che ci sia un'interruzione della legislatura, secondo me, rimane molto alta. Sì, su questo, per concludere però, Guido, io ho avuto la sensazione che al di là di tutte le vicende giudiziarie di Berlusconi ci sia stato, ma è una mia sensazione, un'accelerazione quando, dopo l'intervista del ministro Saccomanni della settimana scorsa, Saccomanni ha detto ci mettiamo d'accordo sui conti o se no io mi dimetto. Cioè, quando il centrodestra in questo caso ha visto che probabilmente un insieme di promesse, diciamo, di carattere fiscale non si riescono a mantenere con questo tipo di manovre, con questo tipo di saldi. Cioè, il peggioramento e anche la disperazione di Saccomanni erano evidenti. Io ho fatto il calcolo prima, adesso il governo deciderà alle 19.30 di spostare di 3 mesi l'IVA, comunque servono 6 miliardi da qua a fine mese. Cioè, la mia sensazione è stata che non si volesse restare col cerino in mano, piuttosto meglio arrivare a elezioni dicendo non ci hanno fatto fare la riduzione fiscale. Esatto, aggiungo che il terreno di vero su cui si può arrivare alle elezioni non è più a questo punto, diciamo, l'IVA, che in qualche modo è risolto il problema con lo stop per 3 mesi, ma sarà secondo me l'IMU, perché bisogna trovare 2,5 miliardi per la seconda rata che è stata era stata sospesa con un accordo politico e sappiamo che incombe, diciamo, a dicembre. Questi 2,5 miliardi sarà molto difficili trovarli da qui in pochi giorni, e quello potrebbe essere l'argomento principe, quindi il tema fiscale, sul quale, diciamo, la maggioranza delle larghe intese va in frantumi. Dammi una possibilità, regge, non regge, quanto sei? Ma al momento a me sembra che non regge, al momento, io direi. Però insomma, adesso magari se poi dovesse reggere ti richiameremo per ridirlo la prossima volta, così diventi un talismano per Letta. A questo punto però nessuno ha la sfera di cristallo, ma vedo che anche tu condividi questo fatto, che come sono peggiorate non i conti pubblici ma le possibilità di intervenire su questi conti pubblici e di mantenere le promesse, la sensazione è stata: rischiamo di arrivare col cerino in mano, forse è meglio far saltare il banco, a mio avviso, in maniera improvvida. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Allora, di tutti i commenti che leggo sulla politica, c'è anche chi si preoccupa delle nostre basi musicali, che le vuole far cambiare, ad altri piacciono. Noi teniamo avanti con queste basi, poi vedremo nel futuro. Invece la borsa che chiude oggi l'ultima seduta con Milano nettamente peggio delle altre borse europee, -1,30%, Parigi invariata, Francoforte invariata, Londra -0,80%, l'America -0,45%. È un calo complessivo, devo dire, dei vari titoli. Sì, c'è chi cala di più di altri, ma insomma, a parte Autogrill +1,70% e media +7,0,30%, Enia invariata, Prismian invariata, l'ex Pirelli Cavi, poi tutti i settori sono in flessione. Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Il calo è dovuto a che cosa? Così, una voglia di vendere Italia? Sì, diciamo che il tema è quello lì, soprattutto parliamo ancora dei timori sulla crisi di governo che penalizzano l'andamento del mercato italiano, e a questo oggi si sono aggiunte le voci che sono un po' ricorrenti, ma insomma sono tornate anche in queste ore, le voci di un possibile downgrade dell'Italia da parte delle agenzie di rating, quindi un abbassamento del giudizio sul debito italiano. E la responsabile del Tesoro per la gestione del debito, Maria Cannata, ha detto che le voci girano, ma che il Tesoro al momento non ha ricevuto alcuna comunicazione. Ricordiamo che le agenzie hanno l'obbligo di comunicare al Tesoro la decisione 24 ore prima di renderla pubblica. Quindi questo è una serie di cause. No, anche perché oggi la cosa strana è che ci sono queste voci di un possibile abbassamento di voto delle agenzie sul debito italiano. Lo spread è tornato a 269 punti, di nuovo siamo di 10 punti più alti della Spagna. Questa è veramente una iattura a livello di immagine, perché eravamo riusciti negli ultimo anno soprattutto ad essere ampiamente più bassi della Spagna, di 30, 40, 50, anche 100 punti. Adesso non c'è niente da fare, la Spagna alcune riforme le ha fatte e soprattutto ha una situazione politica decisamente più stabile di quella italiana, non che ci voglia molto, ma così è. Dico però che oggi il Tesoro ha fatto il pieno nell'asta di BTP a 10 anni, il tasso è addirittura è salito a 4,50 dal 4,46, però insomma la domanda 1,4 volte, non vi sono state grosse tensioni lì nell'asta? No, infatti il Tesoro è riuscito a raccogliere l'ammontare previsto con appunto una domanda superiore, diciamo che appunto si tratta soprattutto, quindi al momento non ci sono riflessi concreti sul rifinanziamento del debito pubblico italiano, sono timori rivolti al futuro e il nervosismo del mercato ovviamente fa sì che gli investitori preferiscano aspettare notizie concrete e sviluppi concreti e nel frattempo magari realizzare alcune posizioni su cui avevano guadagnato nelle ultime giornate. Ricordavi anche tu appunto lo spread è salito decisamente anche oggi, appunto siamo ancora anche in chiusura, si è un po' ristretto il differenziale con la Spagna ma siamo sempre sopra e quindi ovviamente questo andamento ha penalizzato la borsa milanese oggi. Sui titoli, al di là di GTEC meno 3,76, Tenaris meno 3,5, ci sono notizie su Tenaris? Tenaris sono da alcuni giorni che risente dei giudizi negativi degli analisti, oggi è stata penalizzata dal vero tonfo fatto dalla concorrente francese Vallourec, meno 8,2 a Parigi. Vallourec ha messo in guardia il mercato dicendo che i risultati del semestre saranno penalizzati dall'andamento del Real brasiliano che pesa sui risultati dell'attività in Brasile. Anche Tenaris è esposta al Sud America, circa il 10% sul Brasile, quindi ovviamente ne risente anche la società italiana. Allora, le banche sono tutte deboli perché lo spread è in rialzo sui timori che il governo non tenga, timori ben fondati. L'autogrill, bene, arriveranno i dati il 1 ottobre, l'attività dei duty free di autogrill. Invece vorrei chiudere, se ho quanto ho, 30 secondi, 40 secondi, un minuto addirittura, vorrei chiudere su Telecom Italia, meno 2,60, poi leggerò io gli altri titoli. Insomma, al mercato l'intervento della politica sulla OPA, sulla Golden Rule non piace? Sì, è proprio quello, il ragionamento che fanno gli analisti oggi è proprio quello di un intervento della politica che al di là di telefonica o non telefonica, insomma, tende a far passare in secondo piano le ragioni strategiche e finanziarie e questo ovviamente al mercato non piace, quindi sia il Golden Power che la possibile modifica della normativa sull'OPA, diciamo che potrebbe allentare l'appeal speculativo su Telecom Italia, quindi oggi il titolo è sceso del 2,6%. E invece gli altri titoli, dicevo le banche, meno 3% la Popolare Emilia Romagna, meno 2,75% il Banco Popolare e Ubibanca, e poi la Pop Milano perde l'1,70%, meno mossa invece oggi Intesa San Paolo dopo che Guzzetti ha rassicurato, le tensioni non sono così forti, vedremo perché il numero 1 Cucchiani è dato in uscita. E invece altri titoli, Finmeccanica meno 2,80, Telecom Italia l'abbiamo detto, Ansaldo meno 2,40, Saipem meno 2%, TOZ meno 1,80. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Delle volte i sogni si avverano anche se, diciamo, qui ci siamo forse risvegliati da un incubo. Perché lo dico? Perché poco fa il ministro Zanonato ha annunciato che grazie al risultato fondamentale raggiunto oggi, già da lunedì prossimo 1400 lavoratori, il riferimento è chiaramente a tutti gli stabilimenti della riva Acciai, Valcamonica, Verona e non solo, potranno tornare al lavoro. In questi giorni abbiamo lavorato con un grande impegno, ha detto Zanonato, continueremo a monitorare l'attività e la situazione, anche perché l'accordo è arrivato dopo una riunione tra il ministro, il sottosegretario Claudio Vincenti e l'amministratore unico della riva Acciaio Cesare Riva e il rappresentante del gruppo e presidente dell'ILVA Bruno Ferrante, ma c'era anche il custode giudiziario Mario Tagarelli e i rappresentanti delle banche. Questa mattina gli operai dello stabilimento veronese della Riva Acciai, l'ex fabbrica Caltarossa, si sono presentati regolarmente al lavoro, vestiti con la tuta da lavoro per prendere il loro posto come atto simbolico. Però vorrei sapere da chi sta seguendo tutto il gruppo Riva, lo segue dall'Osservatorio di Taranto, ci mancherebbe, Domenico Palmiotti, buonasera. Buonasera Sebastiano. Ma l'accordo è quello che abbiamo cercato di anticipare in questi giorni? Cioè, si è trovato il modo per far sì che con un sequestro dell'autorità giudiziaria non si blocchino i flussi di cassa per pagare fornitori e operai? Sì, diciamo sostanzialmente l'accordo è questo. Oggi c'è stato il vertice a Roma che dicevi tu, però in giornata è intervenuto anche un provvedimento del GIP di Taranto, il quale dispone che tutti i crediti del gruppo Riva, man mano che si trasformeranno in liquidità, non verranno sequestrati, ma saranno finalizzati al prosieguo dell'attività aziendale. Questo è il punto fondamentale che ha consentito di rasserenare la situazione, di avere una schiarita e quindi di mettere in cantiere la riapertura di tutti gli stabilimenti per lunedì prossimo, come annunciato anche dal ministro Zanonato. L'altro punto concordato oggi è che anche le somme che sono state sequestrate nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza, perché erano depositate sui conti correnti delle società, circa 60 milioni, saranno anche queste a breve reimmesse nell'attività aziendale, nel ciclo aziendale, e verranno garantite da un piano di pari importo da parte del gruppo Riva. Questo perché l'amministratore giudiziario aveva appunto manifestato al gruppo che questi soldi potevano sì essere immessi nel ciclo produttivo, a condizione però che l'azienda assicurasse una fideiussione o comunque uno strumento analogo nei confronti dell'amministrazione giudiziaria. Quindi si è trovato, diciamo, un punto di sintesi, un accordo sia sui soldi sequestrati, che potranno appunto fluire a sostegno delle attività aziendali, sia sui crediti che il gruppo Riva deve ancora incassare e che non saranno oggetto di sequestro. Quindi il nodo della liquidità, che era il nodo fondamentale, perché dalla liquidità delle aziende dell'azienda poi sarebbero stati pagati fornitori, sì, materie prime, stipendi. Ecco, sciolto questo nodo, l'attività può ripartire. A quanto pare il decreto legge che il governo aveva annunciato in questi giorni e che sarebbe intervenuto sulla normativa che regola il sequestro preventivo è un po' accantonato. Infatti Zanonato, nelle ultime dichiarazioni che ha fatto, lascia capire che probabilmente, ecco, l'accordo va già bene così, anche se sarà fatta una valutazione. Quindi, che comunque è necessario intervenire per ridisciplinare la materia. Io dico che sì, nel futuro sarebbe meglio avere già una legge, perché l'unico rammarico è che questi 1500 dipendenti sono rimasti a spasso per quasi due settimane. Ci poteva pensare prima, visto che è un anno e mezzo che raccontiamo la vicenda Ilva. Detto ciò, ho capito, hanno trovato la soluzione attraverso una fideiussione che, diciamo, non aggira la legge, nel senso che c'è un sequestro, però non blocca anche i flussi di cassa per gli stabilimenti, per pagare appunto gli stipendi e i fornitori. Ripeto, resta il rammarico per non averci pensato ed esserci arrivati prima che si bloccasse tutta l'attività. Intanto però meglio, o come dicono a Milano, piuttosto che niente, meglio piuttosto. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo molti che scrivono riferito al fatto che Letta ha ricevuto, diciamo, una crisi di governo mentre a Wall Street. Scrivono: ma successe anche a Berlusconi durante il G8, un po' diverso, perché Berlusconi ricevette un avviso di garanzia, è sempre un danno d'immagine per un paese, però Berlusconi ricevette un avviso di garanzia, in questo caso Letta ha avuto l'apertura di una crisi politica, è un po' diverso, non ha ricevuto un avviso di garanzia. Detto ciò, vorrei fare il punto di questa settimana e vorrei farlo, tra virgolette, con un nuovo ospite. La versione di Oscar Giannino. Allora, avete capito, ci sarà chi si arrabbia, già avete scritto, chi invece è contento perché scriveva da mesi, ma insomma noi andiamo avanti per la nostra strada. Torna Oscar Giannino, torna, e questo fa piacere al sottoscritto. Poco prima di Focus Economia dovrebbe essere l'effetto traino, come si chiama in gergo radiofonico, alle 16:30 ogni giorno, con un tema chiaramente a cavallo tra politica ed economia. La versione di Oscar. Oscar, buonasera. Buonasera Sebastiano, un saluto agli ascoltatori della 24 e ai tuoi ascoltatori. Naturalmente sono molto felice di tornare da lunedì tutti i pomeriggi e poi in podcast per chi non può ascoltarlo tra le 4 e mezza e le 5 sul sito di Radio 24, ovviamente. Soprattutto economia, cioè, più che politica, soprattutto economia. Basta con la politica. Allora, senti Oscar, insomma, tu hai attraversato, io lo dico perché non ho nulla da nascondere, ci conosciamo, abbiamo criticato, io poi le critiche le faccio nel privato, non in pubblico, ma insomma tu hai attraversato il tuo deserto, hai passato il tuo purgatorio, immaginiamo che tu ritorni un po' come il marziano di Flaiano che arriva a Roma. Beh, mi sembra che non è che le cose siano molto migliorate. Adesso, venendo subito all'attualità, cioè, noi andiamo a chiudere una settimana in cui su Telecom Italia si è arrivati alla resa dei conti delle privatizzazioni senza capitali in questo paese, iniziate nel 98, la madre di tutte le privatizzazioni, come si distrugge un'azienda buona, perché comunque non è una cattiva azienda, dello Stato, perché mancano i capitali, e si arriva dopo la Fiat, Colaninno, Tronchetti, addirittura le banche erano rimaste in Telecom e finalmente gli spagnoli, dico finalmente perché era ovvio, si compreranno il resto di Telecom Italia. Su Alitalia, anche qui arrivano i nodi al pettine, non si è voluto cedere ai francesi, ce la ritroviamo con 5 miliardi di costi per chi ci ha messo i soldi, soprattutto, devo dire, e di nuovo nella stessa situazione di prima con i francesi sempre meno invogliati a comprarla e che potrebbero offrire sempre meno rispetto a 5 anni fa. L'Ilva, anche qui, sono tre vicende con tre tempi e storie diverse, però il governo sta cercando disperatamente di trovare un modo per cui in caso di sequestro dei beni di un imprenditore sotto accusa non vengano bloccati i pagamenti, quindi l'attività, la cassa per far funzionare gli impianti. Il tutto in una settimana in cui abbiamo ascoltato dichiarazioni da Forrest Gump da parte di tutti, di Catricalà, del ministro Zanonato, del presidente del Copasi, tutti che sembravano venire dalle stelle, e Franco Bernabè, un mito, ho saputo dei movimenti nel capitale dal comunicato stampa, e in una settimana in cui il governo adesso cerca così un po' in maniera rattoppata di cambiare la regola sulla golden share, su quando devi lanciare un'OPA e qual è la quota del tesoro. Insomma, i nodi vengono veramente al pettine nel capitalismo di questo paese. Sai che io e te la pensiamo in maniera molto diversa delle volte, però su questo mi sembra che ci siano poche interpretazioni. No, su questo la pensiamo assolutamente allo stesso modo, perché la vicenda di Telecom, come la vicenda di Alitalia, sono la venuta al pettine, come dici tu, di una specie di terza fase, no? Dopo le privatizzazioni abbiamo avuto prima lo Stato che non ce la faceva più, la seconda fase sono stati i capitani coraggiosi che hanno indebitato Telecom, la terza fase è questa delle operazioni di sistema fatte dalle grandi banche italiane, sia in Telecom, in Telco, Intesa, Generali Mediobanca, sia in Alitalia Intesa, e mi pare che il bilancio anche di questa terza fase sia un bilancio ipernegativo. La mia opinione è che non è il mercato che qui fallisce, il problema è che noi siamo abituati in questo paese, in questa formula collusiva tra il capitalismo asfittico dei patti di sindacato intorno alle grandi banche e la politica a non gestire neanche le società, grandi società private, per fortuna centinaia di miliardi di società italiane non sono soggette a questi vincoli, le gestiamo fuori dal mercato e fuori dal mercato vanno per aria. E la reazione della politica a questa qual è? Tornare con un riflesso condizionato pavloviano che va dall'estrema destra all'estrema sinistra a dire Stato, Stato, Stato, CDP, CDP, CDP, balbettando, perché è evidente che non si rendono conto o non conoscono o fingono di non conoscere, non mi permetto di giudicare, gli andamenti di consolidamento nel mercato delle telecomunicazioni europee, il fatto che Telefonica è molto indebitata, però c'ha un EBITDA da solo che è pari all'intero fatturato di Telecom Italia. Quindi la mia opinione, io esprimo solidarietà al povero Enrico Letta, dico povero tra virgolette, senza mancare di rispetto, perché trovarsi a suonare la campanella Wall Street due mattine fa, mentre in Italia ci apprestiamo a cambiare la legge dell'OPA, a operazione Telecom in corso, a non aver fatto il regolamento attuativo sulle TLC per la Golden Power e a farlo operazione in corso, a espropriare i diritti di proprietà o quantomeno a interrompere la continuità di andare del caso Libra, hai fatto benissimo a ricordarlo, siamo l'unico paese al mondo in cui questo può avvenire per provvedimenti assunti legittimamente, in pieno diritto da parte dei magistrati, però provvedimenti nella fase cautelare, cioè in audita altra parte, e qui la politica in anno e mezzo mezzo che non riesce a mettere a posto la barra, e che non significa sanzionare i magistrati e impedirgli di fare il loro mestiere, vista la gravità dei reati che stanno indagando in quella società e a Taranto, ma significa preservare poi la continuità. È un anno e mezzo che andiamo avanti, questo sarà l'ennesimo provvedimento. E poi ci mette anche, scusami, il marziano Giannino che scende, lascia contuso dopo questi mesi e chiede scusa a tutti, ma però continuerà a fare il suo mestiere che fa da decenni. Ci metto la crisi della terza banca italiana, NPS, che va avanti ancora adesso, e secondo me non eviteremo forse una nazionalizzazione che poteva forse essere fatta prima per pulirla. Monte dei Paschi, dice, certo. Il Monte dei Paschi, ci troviamo, ci aggiungo questa cosa stamattina, un po' ruvida la mia polemica, stamattina leggere sui grandi giornali italiani che l'amministratore delegato della prima banca italiana, sto parlando di Cucchiani e di Banca Intesa, è oramai alle soglie di essere sostituito dalle fondazioni da Bazzoli, e viene presentata la ragione come se fosse un assenteista, quando sotto c'è, e lo sappiamo tutti, il suo no al duale, e della Banca d'Italia che chiede da un anno che esca dal duale Banca Intesa, il suo no a Zaleschi, che è uno scandalo italiano ed è di Banca Intesa, e il suo sì a Soci Esteri, eppure viene presentato come un assenteista da mettere alla porta. Insomma, questo capitalismo asfittico, auguriamoci che cambi. Allora, io non ce l'ho, perché se no ci porta a fondo. Allora, io non ce l'ho con, né con il tema dell'anzianità, vecchio non vecchio, né col tema delle fondazioni, però una cosa fatemela dire: abbiamo fatto per anni, giustamente continuiamo a farla, una campagna per il rinnovo dei vertici della classe politica, per la maggiore sobrietà, perché non possiamo avere la più vecchia classe dirigente d'Europa e via così. Beh, questo vale anche per il mondo bancario, cioè si è chiusa una stagione, nel bene o nel male, non voglio indagare, investigare, c'è chi potrà dire che c'è una stagione in cui le banche italiane hanno fatto meglio di altre banche, può essere anche vero, ci mancherebbe, ma la stagione si chiudono per tutti. Io non ne posso più, col massimo rispetto, di sentire sempre i soliti nomi dentro le fondazioni bancarie che decidono la gestione di una banca. Le fondazioni bancarie dovevano fare qualcos'altro nella vita, poi si sono messe a fare gli azionisti di riferimento, e a Siena ne sanno qualcosa, ma dovevano fare qualcos'altro. Quindi anche lì un manager se ne va perché la banca va male, perché il ROE cala, perché gli investimenti sono sbagliati, per tutti i motivi, ma non se ne va perché non è amato, diciamo, dai vertici della fondazione bancaria in un paese normale. Anche perché sulla vicenda Zaleschi che tu citavi, secondo me lì o la sistemano o è il prossimo bubbone, perché Banca Intesa e Unicredit sono molto esposti nei confronti di Roman Zaleschi, un imprenditore che, come capita ogni tanto in questo paese, dove contano più le relazioni e i salotti, diciamo, dei bilanci e dei progetti, ha ottenuto linee di credito che tutti gli altri imprenditori che ci ascoltano si sognavano. Allora, vabbè, e questo perché evidentemente i suoi rapporti con i vertici della Fondazione Intesa San Paolo erano più che buoni. Detto questo, però, a me sembra che ci sia un filo comune, perché è chiaro tenere assieme l'ILVA, su cui il governo sta cercando di rimediare, Telecom, su cui si cerca di modificare adesso la Golden Share, la quota del tesoro, la soglia dell'OPA, cioè tutto dopo, e anche la vicenda dell'Italia. Qui, al di là di un capitalismo poco concorrenziale, senza capitali, fatto dei soliti nomi, con la politica sempre in mezzo, anche nel Telecom, a me sembra però, Oscar, che qui il paese intervenga sempre quando i buoi sono scappati. Cioè, tutte queste vicende, per carità, si possono affrontare, ma è difficile affrontarle dopo che gli spagnoli sono saliti, quando l'Italia ormai è in ginocchio, quando gli operai della Riva Acciaio sono già per strada, e quando il Monte dei Paschi, se non puntiamo i piedi, adesso è obbligato a fare una cosa umiliante nei confronti dell'Europa, che non è stata chiesta a nessuna banca tedesca o francese o belga in passato, perché la nostra politica era distratta. Ma perché arriviamo sempre dopo? È per due ordini di motivi. Il primo lo abbiamo già detto, perché esistono influenze e intrecci tra i governi pro tempore, di qualunque colore, destra o sinistra, fino a questo momento, in questi 20 anni di Seconda Repubblica, e alcuni di questi centri di potere finanziario italiano, che continuano ad agire come se un mercato vero nel resto del mondo non esistesse. La seconda ragione, purtroppo, è politica, perché il ritardo con cui la politica interviene, che cosa esprime? Anche qui io non do giudizi di colore politico, però esprime la mancanza assoluta di consapevolezza di come si deve intervenire per cambiare queste regole del mercato. Un mercato non esiste in natura, un mercato, questo lo pensiamo uguale in realtà io e te, esiste in quanto ci sono delle buone regole che lo fanno funzionare, e le buone regole le scrive la politica, questo è il punto. La politica italiana si rassegna sempre a sperare nello stellone. La cosa di Alitalia è andata avanti così da anni, sono 2 anni che sappiamo che di fronte a perdite accumulate di quel tipo i soci quindi nella cordata di Intesa e coi soldi del contribuente, non potevano fare l'aumento di capitale tale da risolvere il problema. Anche l'aumento di capitale di ieri a cui ho votato contro Air France è un aumento di capitalino che serve per andare avanti 3 mesi. Eppure la politica non ha fatto nulla. La cosa di Telefonica. Telefonica sta lì dentro oramai dal dopo Tronchetti, dal 2007. È stata scelta da Mediobanca Generale Intesa come consorcia. Non è che potevamo immaginare che con l'accumulo del debito che non si riduce, il goodwill da rimettere a posto, quindi svalutazioni e la contrazione del mercato italiano non fosse naturale. No, a me, se posso permettermi una battuta, sembra che ogni tanto noi trattiamo i capitali esteri presenti nei grandi gruppi come trattiamo gli extracomunitari, cioè vorremmo che ci fossero ma non si vedessero. Io nel senso un esempio, hai gli spagnoli dentro però non devono salire hai i francesi dentro però devono stare buoni. Eh no, Ciccio, stamattina prego. C'è un editoriale sul Daily Telegraph e questo editoriale analizza la crescita verticale negli ultimi 3 anni di diritti di controllo sul totale delle aziende quotate alla Borsa di Londra. In 3 anni sono arrivati al 53% del totale della capitalizzazione che è in controllo straniero e questa quota è cresciuta del 10% in 3 anni. Il Daily Telegraph, secondo i nostri ascoltatori, inneggiava questa roba o se la montava? Inneggiava perché diceva siamo un paese capace di attirare una enormità di capitale da tutto il mondo. Noi facciamo l'esatto contrario e dopo Snowden abbiamo ancora il Copasir che dice che sulla rete passano informazioni stratosferiche, come invece avendo tutti operatori stranieri tranne TIM nella telefonia mobile questo non fosse stato un problema fino a ieri, tanto per dirne un'altra. Certo. Questo significa non avere la consapevolezza di che come soprattutto ancora ecco, più grave, un'ultima... perché noi siamo nella più questo scusami sì. Ci picchierò giorno per giorno, noi siamo nella più grave contrazione dopo 3 anni e dei 5 anni di crisi di PIL italiano dai tempi dell'unificazione. Oggi ho postato un grafico Bloomberg JP Morgan che mette l'andamento a prezzi correnti dell'andamento PIL 1861 al 2013. Siamo di fronte alla più grave contrazione. La politica di fronte a questo ci propone che cosa? Le elezioni di nuovo col Pascellum a febbraio? A migliaia di imprese italiane e a milioni di italiani che hanno perso il lavoro? Io non do giudizi politici, però è evidente che la priorità è un'altra. Sì, io vorrei capire, ma siamo quasi fuori tempo massimo anche perché poi un governo di larghe intese non riesce a fare quelle riforme che nessun governo di centrodestra, che ha governato di più, ma anche quando governava il centrosinistra non è mai riuscito a fare, cioè in altri paesi almeno approfittano della grossa coalizione per fare le grandi riforme. Qui invece mi sembra, Oscar, una battuta che si punti solo al piccolo cabotaggio, ma entreremo forse troppo nelle vicende politiche. Esatto, fermiamoci sul mercato e giudiziarie. Allora, da lunedì alle 16.30 tutti i giorni Oscar Giannino, una cosa, il programma si chiama La versione di Oscar, ti volevo chiedere, ma sarà quella vera? Sarà quella vera, ovviamente, io non potrò più permettermi, ed è giusto così, lo dico al pubblico e a chi ha i dubbi, che rispetto, più reti di caduta, quindi si va senza rete e ogni giorno la gente sarà libera, come sempre, tutte le radio, ma in Radio 24 soprattutto, visto che parliamo di numeri e cose concrete, di giudicare. In bocca al lupo a Oscar Giannino 16.30, poi spesso vi dico già, vedo che molti scrivono, non la penseremo in maniera diversa, ma ragazzi, ma che siamo alla radio del pensiero unico, lui magari è molto... più fautore del mercato in un certo modo, c'è Van Hayek e c'è anche Keynes, così con questa roba mi sono bruciato la stragrande maggioranza del pubblico, ma soprattutto è bello che su certi temi la si possa pensare in maniera diversa. In bocca al lupo, Oscar. Della vita, grazie a Sebastiano, al tuo pubblico, viva Radio 24. Grazie Oscar Giannino. E grazie a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza in regia, da Sebastiano Barigioni un buon fine settimana, ci risentiamo con il nuovo palinsesto di Radio 24 lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente. Sistema completo, il pacchetto pieno di servizi di TNT Post, scoprilo su tntpost.it. Vi ha presentato Focus Economia.